Blue Time Live. Live. 3 minuti dopo le 21, buonasera da Agostino Spolaore e buonasera come di consueto anche dal mio inseparabile, fedele, fedelissimo nonnetto, ciao. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori, scusate se rido però il nonnetto ci sta sempre, è un marchio di fabbrica. Maurizio Calzavara, ben ritrovato. Grazie a distanza di 24 ore siamo di nuovo insieme. Sì, perché the show must go on, lo spettacolo deve sempre continuare. Poi questa sera è una serata particolarissima. Esattamente. Credo sia la prima, anzi ufficialmente è la prima, ma c'è stato già un qualcosina l'anno scorso sempre con Cesare, che poi magari ne parleremo. E abbiamo il musical questa sera, quindi un'esperienza nuova, un esperimento tra l'altro anche nuovo. Avremo il musical in diretta, quindi è ancora una emozione grande da vivere nelle nostre frequenze e anche, perché no, in streaming. Prima di cominciare di presentare i nostri ospiti, vi ricordo il nostro numero telefonico, e questa sera quello degli sms è importantissimo perché mi permetterà, grazie a un vostro sms, di vincere i biglietti, ci sono in palio due biglietti, uno per domanda per partecipare, appunto per entrare gratuitamente allo spettacolo di sabato prossimo, ma ne parleremo più dettagliatamente con l'organizzatore, cioè con Cesare, tra pochi istanti. Dicevo, il nostro numero di sms è il 346 23 20 0 33, lo ripeto ma lo ripeterò spesso, 346 23 20 0 33. Se invece volete chiamarci in studio, vi ricordo lo 049 875 6423. Le nostre frequenze sono 88.700, 94.600 in modulazione di frequenza, e poi ancora il nostro sito dove potete ascoltarci in streaming semplicemente cliccando sulla scritta ascolta la radio, lì ci potete sentire 24 ore su 24 in diretta assolutamente. Il nostro sito è www.bluradioveneto.it e poi ancora le nostre pagine su Facebook, Blu Radio Veneto, l'altra Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che non sarà più qui questa sera, cioè il giovedì, ma lo ascolterete sempre dalle 22.30 alle 24 il martedì. E questa sera ci sarà, c'è Renato. Certamente Renato Ferro col suo rock, col suo heavy metal, eccetera. Il suo rock particolare. La sua musica. Per i suoi fans, gli amanti di questo tipo di musica, l'appuntamento è alle 22.30. E poi ancora le nostre pagine su Twitter. E credo di aver detto tutto, Maurizio. Possiamo assolutamente cominciare. Abbiamo, come dicevo prima, abbiamo la compagnia del villaggio, si chiama, che sono praticamente i vincitori dell'edizione, della prima edizione del musical, del concorso musical Sognando Broadway, che si è svolto l'anno scorso, non mi ricordo il periodo, Cesare aiutami tu, sempre... siamo partiti dal primo di ottobre, abbiamo finito a novembre, quest'anno partiamo un giorno, due giorni prima, il 29 di settembre. E questo è Cesare Bortolotto. Chi sarebbe Cesare Bortolotto? È quello che fa tutto, il factotum di questa manifestazione, Cesare, è così? Quello che fa tutto, in realtà ci sono altre persone, sì, che mi danno, certo, una mano. Uno staff. Diciamo che ho avuto questa idea, questa malsana idea di creare questa manifestazione, che comunque mi sta dando anche delle soddisfazioni. Beh, insomma, se no, altrimenti non l'avresti ripetuta quest'anno. Esatto. E poi in studio, quindi, per finire il cerchio degli amici che sono venuti a trovarci questa sera, abbiamo appunto gli esponenti, una parte degli esponenti della compagnia del villaggio. Qualificata, abbiamo scritto una qualificata rappresentanza. E li vogliamo presentare uno a uno. C'è Spugna, mi viene in mente Spugna subito, Luca Lovato. Sì, buonasera a tutti, grazie intanto per l'invito e grazie a Cesare per l'organizzazione. E saremo anche con Spugna. Luca, tra l'altro, se non sbaglio, correggimi, è anche il regista del musical Peter Pan. Esatto, cura la regia. Fai il doppio lavoro, tu. Sì. Poi abbiamo il capitano Uncino, e cioè Pierantonio Dalla Riva. Sì, buonasera a tutti, ciao. Ma sei bellissimo in foto, ti ho visto, sei vestito da capitano Uncino. Devi vedermi sabato. Sì. Ti vedrò. E poi ancora Peter Pan, chi è Peter Pan? È Matteo Perin. Buonasera a tutti. Hai la faccia un po' da Peter, cioè... da Folletto, quando siamo arrivati stasera, prima di iniziare la trasmissione, abbiamo subito detto io e Agostino, la faccia da Folletto. Senso positivo del termine. Sì. È il naso. Lo prendo come un complimento. E poi ancora abbiamo il coccodrillo, ovvero Simone Pesamento. Buonasera a tutti. Fai il verso del coccodrillo, sì, per favore, fai il verso. Fammi la sveglia. Il coccodrillo come fa? Allora, avete capito. Ci manca Wendy. Chi è che fa Wendy? Maurizio, la fai tu? No. Lasciamo perdere. Allora, vabbè, a parte gli scherzi, allora, avete capito, siamo già in vena goliardica questa sera, ma insomma lo spirito è sempre quello di essere più simpatici possibile. Ma parliamo più dettagliatamente di questo musical. Prima di presentare proprio Peter Pan, io volevo che tu, Cesare, ci dassi veramente un'immagine abbastanza, diciamo, pulita, nel senso netta e limpida, di quello che è questa manifestazione. Sì, beh, allora non è altro, l'idea è quella di far vedere queste compagnie che fanno musical a livello amatoriale, ma non amatoriale nel senso basso di quello che può essere il termine, ma nel senso che amano il musical e amano quello che fanno, e molta gente non è a contatto con queste realtà o comunque non riesce a vederle, e volevo proporre questa cosa. In questi anni è anche molto molto difficile riuscire ad andare in giro con degli spettacoli del genere che, nonostante siano amatoriali, hanno bisogno di risorse molto molto alte. Luca mi sta guardando, mi fa segno di sì, perché lo sa lui, lo so io, che anche noi, avendo una compagnia, organizziamo un musical, e purtroppo andare in giro è sempre più difficile, perché i soldi sono sempre pochi disponibili, e perciò io ho detto: vabbè, senti, mi metto in gioco, vediamo quello che riesco a fare. Ci saranno, alla fine l'idea, il pretesto è quello di creare una specie di concorso, anche se la cosa bella secondo me è proprio far vedere questi spettacoli. L'anno scorso è stato l'anno zero, chiamiamolo così, perché è stata una cosa fatta su due piedi, e la cosa più bella è stata che alla serata finale tutti i ragazzi di tutti i musical sono saliti sul palco, cioè si è creata quasi un'amicizia. Per me è stata veramente una cosa bellissima questa, che va oltre quello che può essere, uno può dire c'è la rivalità tra le varie compagnie. In realtà la cosa bella è che le persone erano lì solamente per fare uno spettacolo e per divertirsi tutti assieme. E ci sei riuscito, insomma, in questo. Spero di sì, quest'anno spero ancora di più. Tra l'altro sono molto legato con i ragazzi della compagnia del villaggio, anche perché sono stati i primi che hanno fatto la domanda per partecipare, sono anche stati quelli che hanno vinto la maggior parte dei premi, e meritatamente anche. Certo. E l'anno scorso quante compagnie? Come quest'anno, sempre cinque compagnie. Sono praticamente, abbiamo una compagnia ogni 15 giorni, partendo da questo sabato con Peter Pan. E beh, possiamo dire anche le altre compagnie. Sì, allora, poi ci sarà fra il 13, mi sembra, di ottobre, c'è Mary Poppins. Poi il 27 di ottobre, Life in Plastic. Il 10 di novembre, il Re Leone, e il 24 e il 25 di novembre c'è Mamma Mia. Il 25 di novembre ci saranno anche le premiazioni del concorso. E Mamma Mia, ricordiamolo che sei parte in causa. Sì, Mamma Mia è lo spettacolo di Muge, della nostra compagnia. Per chi non lo sapesse, Cesare è anche il regista del sì. Musical Mamma Mia. Esatto. L'anno scorso avevi fatto invece? L'anno scorso avevamo fatto Spettacolo Spettacolare, Moulin Rouge, che tu conosci abbastanza sì, bene. Sì, conosco bene, l'ho visto due volte. E anzi, le approfitto per salutare anche la Erika, se ci sta ascoltando. Ecco. Cosa volevo dire? Sì, e poi come si svolge? C'è questa competizione, c'è una giuria? C'è una giuria tecnica, perciò composta da persone nell'ambito dello spettacolo. Ci sono attori teatrali, direttrici di scuole di danza, cantanti, e anche c'è uno speaker radiofonico che adesso non ricordo bene come si chiama, mi sembra un certo Agostino, non so. Sì, ci sarai anche tu, che sarai anche il presidente della giuria. Ecco. E poi ci sarà una giuria popolare, fatta da tutto il pubblico partecipante alle varie serate. Che questa è una novità, se non sbaglio. No, c'era anche l'anno scorso. C'è una novità che proprio nuovissima di ieri. Ci sarà anche un premio della critica, perché i giornalisti del Mattino di Padova, del Gazzettino e del Corriere hanno deciso di partecipare a questi spettacoli e dare un premio della critica. E questa è proprio una novità, proprio di ieri. Ah, che bello. Sì. Senti, per chi volesse ancora altre informazioni, so che per esempio si possono prenotare i biglietti anche via internet. Sì, sul nostro sito sognandobroadway.it basta compilare, c'è un form, una pagina di form, uno basta compilarlo e prenota i posti per lo spettacolo. Oppure ci sono delle due prevendite, una dal Bignasego al negozio Videotime e una a Padova Studio 5 Design. Che quindi possono possono comprarli in prevendita oppure lì direttamente sì. Che si svolge dove? Ad Albignasego, al Palazzetto Polivalente, alle 21. Ci inizia subito. Sì. Puntuale, non come tanti artisti che vincono sempre poi. Beh, magari ci potrà essere un 15 minuti di ritardo. Esatto. Certo. Io intanto ne approfitto per ringraziarti dell'invito, per tornando al discorso che hai fatto poc'anzi, cioè il fatto di avermi voluto in giuria, mi fa veramente molto molto piacere, sono onorato di questo, ti ringrazio Cesare. Maurizio, ho parlato sempre io, tu non parli mai. Ma è giusto, è il tuo programma, il musico è molto più il tuo programma rispetto agli altri, gli altri giovedì che abbiamo sempre fatto e faremo assieme chiaramente. E musical Peter Pan, l'idea nasce da uno scrittore, da un romanziere, che non scozzese. Diciamo il nome? No, diciamo il nome. Da un romanziere scozzese. No, la musica, io parlo del testo. Okay. Parliamo col regista della musica adesso, che le spiegherà l'origine del testo. Ah beh, allora James Barry è uno scrittore che nel 1902, per la prima volta, diciamo, inventa il personaggio Peter Pan. È un personaggio che non vuole crescere, è un bambino che in realtà vive in un'isola che non c'è, con fate, con indiani, con folletti e con i bimbi sperduti. Questo personaggio però viene tagliato nella prima versione perché poi decidono di mandarlo più avanti come unico romanzo che si chiamerà appunto Peter Pan. Pan perché suona un flauto, il flauto di Pan, e di conseguenza Peter viene associato a questo flauto. È un personaggio che poi porterà fortuna a questo scrittore, proprio perché scriverà anche il testo teatrale che noi facciamo riferimento a, certo, questo testo. Quello. Ecco. Questo, quindi la genesi del romanzo, la genesi della storia nasce dalla parte dalla. Sì, sì, si dice che lo scrittore fosse affetto da questa sindrome, quella di Peter Pan, che poi era uno che giocava molto e di conseguenza ha fatto crescere questo Peter Pan fino ad arrivare poi nel 1911 a far uscire questo Peter e Wendy, Peter Pan e Wendy, che è la storia che poi noi prenderemo in esame con il nostro spettacolo, che poi un certo Bennato ha pensato bene, Edoardo, un certo Edoardo che non è Bennato. Eugenio, che è il fratello, no, assolutamente, anche se dicono che abbia collaborato anche lui sotto mentite spoglie, sicuramente. Ok, ha ripreso questa storia sempre da un lato un po' più politico, certo. Lui aveva questo, continua ad avere questo vezzo, e da lì diciamo è nata poi questa fusione che ha portato all'ideazione di uno spettacolo che poi è diventato uno spettacolo per bambini con l'adattamento dei testi. Esattamente, perché lui l'ha un po' riformato, l'ha un po' cambiato, assolutamente, perché essendo uno spettacolo per bambini o presunti tali, bambini anche grandi, molto grandi di solito, no, per bambini, per modo di dire, fa pensare tutti, non solamente i bambini. No, è per famiglie, e comunque i personaggi sono l'esasperazione di alcuni lati e sfaccettatura delle persone. Certo. Cioè, io conosco Simone ed è perfettamente... Simone, perché ho tirato fuori questo nome? Sì. Perché prima, quando sentivo il nostro Cesare, che diceva, sì, è stato un modo per incontrarsi, cioè Simone è riuscito ad avere 35 numeri di telefono di ragazze. Ah, quindi non so se è funzionato molto. Non è vero. No, vabbè, torniamo al nostro testo. Sì, effettivamente lo spettacolo, cioè, può far pensare, comunque, già dal primo pezzo, che se poi sentiremo, certo. Già questa sera, già dal primo pezzo ti fa pensare, cioè questa idea che siamo un po' uniformati ci fa invece vedere le cose diversamente quando prendiamo il volo e le guardiamo dall'alto, cominciamo a pensare a quello che noi siamo e quello che vogliamo veramente. Certo, proprio così. E allora rompiamo il ghiaccio, ascoltiamo già subito una canzone d'arrivo, però prima vi ricordo ancora una volta, prendete carta e penna, ve lo dico piano, poi dopo la canzone magari vi facciamo la prima domanda, vero Cesare? Perché ci siamo dimenticati di dire che ci sono in palio i biglietti. Sì, due biglietti per la serata di sabato. E quindi allora 346 23 20 033, questo è il numero per mandare i vostri sms e per darci la risposta alla domanda che tra poco vi faremo. Prima intanto ci ascoltiamo la canzone. Cosa ci fate ascoltare allora? Il pezzo si chiama Ma che sarà, è cantato da un vagabondo che è un raccontastorie che apre lo spettacolo, quindi introduce a tutti la storia di Peter Pan. Ok. Ma che sarà? Che cosa ti offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per volare. Ma è quello che vogliono da te, già appena nati ci hanno abituati a non pensare, a darcene l'illusione, e sempre con la scusa della ragione. Ma la mente va e non si fermerà, ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare. Viste dall'alto, le persone adulte sono meno serie, meno importanti. Ma non lo vedi, sono di cartone, se resti a terra cosa vuoi capire? Con la scusa di schiarirtela ti confonderanno sempre più le idee. E adesso hai l'occasione per poter volare, e allora non la sprecare, prova a volare, prova. Ma che ne sai se non ci provi mai? Non puoi, se forse vale o no la pena di tentare un'occasione per volare. Woo! Wow, bravo, bravissimo. Grazie, bravo. Grazie. Ma ti scateni così tanto anche mentre sei nella parte dell'attore? Non fa, è bello che non faccio questa parte. Ah, non la fai. No. Però ricopre un ruolo altrettanto rock che quello di Capicini. È perché Bennato è rock. Assolutamente. Assolutamente rock, al 100%. Già l'idea di fare il Peter Pan è un pezzo rock, è un disco rock, è una musica rock, è una storia rock. Anche se poi la storia è dedicata ai bambini. Però è rock. È rock, assolutamente, è assolutamente rock. Allora Cesare, facciamo questa domanda. Intanto ricordiamo ancora una volta il numero finché sì, tu sì, ti prepari. 346 23 20 033. La domanda è? Allora, la domanda difficilissima. Come si chiama il cane di Wendy? Vi do quattro possibilità. Lillo, Barone, Nana o Banana. Quindi ripetiamo le quattro. Ripetiamo la domanda e anche. Allora, sì. Come si chiama il cane di Wendy? Le quattro possibilità sono Lillo, Barone, Nana o Banana. Quindi, come avete capito, anche le domande sono inerenti al musical. Certo. Ovviamente non poteva essere diversamente. Quindi, la prima, insomma, che ci manda un sms qui al 346 23 20 033 avrà diritto a ricevere un biglietto omaggio da ritirare. Direttamente sabato sera in cassa. Credo sia già arrivato uno, vediamo se... Attenzione. Ci ha già risposto, sì. E vabbè, diamo già la risposta, ma mai aspettiamo qualcun altro, vediamo okay. se ma comunque ha già dato la risposta giusta, vabbè, lo diciamo, era Nana, esatto. Nana. Poi sentiamo chi è, la contatteremo e ci faremo dare il suo nome o lo contatteremo se sarà un maschietto, insomma. Allora, dimmi Maurizio. Ci sono quattro biglietti, Quattro? Quattro biglietti sono. Mi avevano detto due. No, adesso sono aumentati. Da quando? Sono aumentati. Sei tu? Sì. Quattro biglietti? Facciamo quattro domande, Cesare. Quattro domande, però io non ne avevo preparate quattro. Le altre le faccio fare a loro. Non ti preoccupare, ce le ho già pronte. Ne abbiamo tre. Vuoi che ne facciamo già un'altra? Facciamo la. Ok, posso fare. Del coccodrillo? Esatto. Questa penso che la sanno tutti. E poi le altre due magari le facciamo più avanti. Cosa ha ingoiato il coccodrillo oltre alla mano di Capitan Uncino? Una sveglia, un timone, una spada o un fucile? Ripetiamo. cosa ha ingoiato il coccodrillo oltre alla mano di Capitan Uncino? Una sveglia, un timone, una spada o un fucile? Ovviamente sempre il 346 23 20 0 33, sono aumentati i biglietti, credevo due, sono diventati quattro, quindi quattro persone avranno diritto a partecipare gratuitamente a questa manifestazione che si terrà appunto sabato prossimo, fra due giorni in pratica, insomma, dal Bimbo. Esatto. Allora, entriamo in quello che è il musical di Peter Pan. Parliamo con Luca, ovviamente, che è lui il regista. Luca, dove sta la difficoltà nel creare questo un musical, in questo caso quello di Peter Pan? Allora, in generale il musical ha una difficoltà che non è da sottovalutare, che ha bisogno di performer e non solo di attori, non solo di cantanti, non solo di ballerini, ma ha bisogno di persone che si mettano a disposizione delle tre arti, quindi la fusione del canto, della danza e della recitazione offre poi allo spettatore finale un credibile personaggio che si muove sempre nel panorama nella scena e nel musical, nella storia. La difficoltà poi sta che bisogna ambientarlo e quindi subentrano le scenografie, subentra tutto quello che è anche il disegno luci, quindi quello che vogliono dire le scene, e subentra in più l'intenzione che si vuol dare allo spettacolo, il taglio che noi vogliamo dare allo spettacolo. Il musical è molto complesso, però il risultato di un musical molto spesso porta veramente la gente a entrare nella storia e molto spesso a commuoversi e a emozionarsi, visto che va di moda questo termine, l'emozione è parte del musical. Il regista tira tutte le fila di sì, questo discorso, sei te in questo sì, caso. Sì, sì, ci vuole una coordinazione in questo senso, altrimenti io mi metto sempre nei panni di chi fa il coreografo, pensa soprattutto alla coreografia e quindi a quello che vuol far vedere. Il cantante tende a fare il cantante, però se io ho bisogno di un personaggio che non sia perfettamente cantante ma che sia credibile, lo devo in qualche modo far rientrare in certi canoni che io, fanno parte del mio personaggio. Io ho letto il tuo curriculum, hai altre esperienze di questo genere? Cioè... Sì, io diciamo che sta diventando il mio lavoro, fortunatamente questo. Bello, bellissimo. Assolutamente sì, voluto e cercato, però con le sue difficoltà, ma ripeto, per fortuna si può fare questo, per fortuna sto facendo questo lavoro, altrimenti non saprei come sfogare le mie idee, il mio modo di essere, ecco. Da quando ti è nata questa passione per il musical, Luca? Ma penso, allora... Posso dire che insieme ai ragazzi qui, infatti la compagnia del villaggio, svelo un segreto che nessuno sa, ragazzi, attenzione, perché la compagnia del villaggio nasce da ex animatori di villaggi turistici. Quindi, tutti? Diciamo che i vecchi. Eccolo qua, vedi lui, Simone. È il buon Simone, il nostro, il cantante che avete sentito, Pierantonio, insomma abbiamo avuto questo trascorso che ci ha portato poi alla fine a cercare dei personaggi che fossero adatti anche dal punto di vista caratteriale, perché ci vuole anche una preparazione caratteriale a questo tipo di specialità. E poi in realtà io sono stato innamorato, e qui lo dico e un giorno lo farò, la prima volta nel 96 ho visto Sette Spose per Sette Fratelli dal vivo. Della Disney? No, l'ho visto, beh, in realtà l'avevo visto a casa con mia nonna, sai, quello che danno l'ufficiale del 40 e passa. Esatto. E l'ho visto a Milano, al Teatro Nuovo, e ho visto questa fusione perché c'era Paganini che lo faceva con Tosca. E lì ho detto, vabbè, il teatro io lo voglio così. Facevo già qualcosa, però da lì mi è nata la voglia di approfondire. Ecco. E perché quest'anno, dopo Aladdin, hai scelto Peter Pan? Allora, in realtà abbiamo fatto così. L'anno scorso abbiamo fatto Aladdin, quindi ci siamo detti, ma quelli che sono venuti a vedere Aladdin, tornerebbero a vedere Aladdin o vogliono vedere la compagnia in qualche altra veste? E abbiamo avuto anche l'appoggio di Cesare, che è venuto a vedere il nostro spettacolo, e Cesare ha detto, sì, voglio Peter Pan, che... Credo che poi Cesare in qualche modo vi farà capire anche, ha una forza. Peter Pan è fatto di molte macchiette, è uno spettacolo che continua a salire e a scendere, quindi anche per chi lo guarda è molto piacevole. Sì, Cesare, è verissimo, è anche molto emozionante, sembra uno spettacolo prettamente per bambini, però alla fine emoziona, secondo me emoziona molto anche i grandi, anche perché l'idea di restare sempre bambini è un'idea, penso che poi, okay. Poi a noi che facciamo questa cosa qui è proprio la base, penso che se uno non ha questa idea non potrebbe fare niente. E a me è piaciuto veramente tanto, è super coinvolgente anche, mm-hmm. E perciò, come ha detto Luca, ci sono delle macchette, tra l'altro una la fa proprio Luca, è bravissimo secondo me. Non svegliamo tante cose. non diciamo nulla. No, è uno spettacolo che per chi si siede a guardarlo parte, tra virgolette, in sordina, perché mostra alcune battutine che fanno sorridere. Poi a un certo punto, secondo me, sconvolge, yeah. Perché proprio cambia completamente l'atmosfera, cambia completamente i personaggi, ti rimette anche in gli gioco. Scenari. Sì, sì, sia scenograficamente, ma proprio anche dal punto di vista del linguaggio. Inizialmente è un linguaggio veramente che va molto vicino ai bambini, perché c'è questo Peter Pan che cerca l'ombra, cioè uno che cerca l'ombra, non è che, e c'è il cane che entra, e c'è Wendy che è piccola, e ci sono i bambini che fanno i piccoli. Poi a un certo punto ti arriva dentro questo ambiguo Capitano Uncino che si arrabbia per ogni piccola cosa, e di fronte e di fianco ha un compagno che espugna, che invece è un ubriacone che non gli può fregare meno di quello che cerca il buon Capitano Uncino, e che è lì solamente perché ci sono le casse di rum, fondamentalmente. Certo, questo è certo. Ci date un altro assaggio? Assolutamente sì. Di questo musical, siamo qui anche per questo, per capire, insomma, carpire qualche momento, anche se non possiamo vederlo, ma insomma lo potete comunque sentire sempre da questa compagnia del villaggio. Cosa ci fate sentire adesso? Beh, lo farei presentare. Sì, sì, sì. Poi la canta. Vai Matteo. Che è Peter. È Peter. Bravo. L'isola che non c'è? Presa del musical Peter Pan. Ambienta un po' il momento, dai, lo fai. Ok, l'isola che non c'è è il momento in cui Peter Pan arriva nella casa di Wendy e si trova davanti una bambina che in questo momento si trova a crescere, e quindi lui la convince in tutti i modi a partire con lui per vivere un viaggio fantastico all'isola che non c'è, insomma. Ok. Sveliamo che la parte di Wendy sarà cantata da Capitano Uncino. Fantastico. Non ci credo. Sì, sì, sì, sì. Ah, questa sera però. Stasera, ah. Sì. No, anche sabato. No, come, sabato no. Come si chiama Wendy a proposito? Federica. Che Federica. La salutiamo, che magari certo. Sta ascoltando. Ciao, ciao Federica. Ciao, Federica. Ciao. Un bacione da tutta Blu Radio Veneto, ma intanto ci vediamo sabato. Allora, l'isola che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, e poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. Ma chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con te, non esiste una terra dove non ci sono santi, né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. e ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Ci vedo come Wendy, Grazie. Complimenti a Matteo. Grazie. Sarai vestito proprio come Peter Pan? Sì. Ci parlate dei vestiti come sono? Dei vestiti? Assolutamente sì. Intanto ringrazierei la nostra costumista di fiducia, la nostra Gianna Peron. Sì, che ragazzi, Gianna. Evviva Gianna! Evviva Gianna! Gianna, che sono sicuro è all'ascolto. Ciao, Gianna. Ciao Gianna! Adesso ciao. Ti svelo la risposta alla prossima domanda, così vinci i biglietti. Sì. A proposito, ti fermo subito, Luca. Allora, è stato indovinato anche il secondo quiz. Benissimo. Che era appunto la sveglia quella del coccodrillo, insomma. Aspettiamo un qualcosina per fare la terza domanda. Sì, e... lascio che la pensino, che la pensino i ragazzi loro, e... ma Luca ce l'ha già in testa in realtà. Sì. È che Luca è cattivo, purtroppo. Intanto ve lo ricordo ancora, prendete carta e penna, vi servirà tra qualche minuto, insomma. Faremo una terza domanda per un terzo biglietto per entrare gratuitamente allo spettacolo di sabato prossimo. Quindi ogni settimana ci saranno 4 biglietti. Cesare, me lo confermi allora? mi ha costretto. Maurizio mi ha costretto. Grande Maurizio. Con l'inganno. Allora, vi ricordo il numero per gli sms: 346 23 20 033. Lo ripeto, 346 23 20 033 è gli sms per partecipare a questo concorso. Qui arrivano direttamente a noi, qui a Blu Radio Veneto. Stavamo parlando di costumi allora. Sì, costumi, allora dicevo appunto Gianna Peron, poi abbiamo, vorrei ricordare che il costume senza il trucco dice poco, quindi anche la truccatrice Federica Grazie. Però per quanto riguarda appunto gli abiti, diciamo che Peter Pan è vestito come nell'originale, cioè questa idea di foglie legate poi a delle ragnatele, legate poi a questi pezzi di diciamo fogliame vario che si porta intorno nella parte alta per renderlo ricco, e poi invece ha queste gambe molto sottili e esili proprio per dare l'idea anche di bambino, probabilmente non so se l'avete notato, però il ragazzo che abbiamo qui vicino è molto giovane, è un metro, molto giovane, ed è 1,20 m, per cui la controfigura. Quindi ci sta tutto, e questo vale a dire anche per esempio per i bambini, perché poi alla fine avremo dei ragazzi adulti che reciteranno da bambini, e di conseguenza anche l'abito lì è stato un po' studiato, cioè chiaramente con un vestito molto ampio Wendy, anche se di suo è 1,95 m, sembrerà 1,20 m anche lei, no, a parte gli scherzi. Quindi anche gli abiti sono stati curati cercando di restare in quella che è l'ambientazione, tutto è quanto legato anche a livello di colori, sia con le scenografie e che con appunto gli abiti e il trucco, diciamo che non è stato lasciato al caso, fortunatamente nulla, e si è voluto, come dire, spingere anche in questo senso un po' di rock in Capitan Uncino, che lo troverete molto rock e per alcuni versi forse un rock anni 70, quei personaggi con la gamba molto stretta, con lo stivale, con insomma sarà rock anche lui, capello lungo, un po' di come no, Capitan Uncino, cosa sì, ne sì. Dici? No, ho lo stivaletto cinese a 15 euro non si dice, ma questa però più anni 70 di quello lì non ce n'era assolutamente, no, è stato curato. Poi chiaramente anche lì, quando si entra con gli indiani, quando si entra in quella che è la fantasia del bambino, dobbiamo rispettare quelli che sono certi canoni, e l'abbiamo fatto. Tu hai detto una cosa giusta, molti anni fa, io ho una certa età, in Ciao 2001, te lo ricordi Ciao 2001? Edoardo Bennato teneva una rubrica, si chiamava Fermate il mondo, voglio scendere. La filosofia di Edoardo Bennato è proprio racchiusa in questo pezzo, che è il pezzo più famoso dell'album, è proprio questo: fermate il mondo, voglio scendere. Voglio scendere, voglio ritornare ad essere bambino. Questo è per quello, parte tutto da questa idea di Bennato. Ma assolutamente, ma poi effettivamente, voglio dire, anche questi personaggi qua, neanche Capitan Uncino non è cresciuto. No, esattamente. Capitan Uncino a un certo Robin punto... Robin Williams lo faceva bene come attore. Assolutamente, sì. Hook, Capitan Uncino... Era meraviglioso, era bravissimo. Bravissimo. E poi... Ma guarda che Robin Williams non faceva Capitan Uncino, sì, faceva... era Peter Pan. Faceva Peter. Ah, faceva Peter. Hai ragione, era l'altro. Era Dustin, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Dusty Hoffman. Ho fatto una gaffe totale. Sì. Sì, sì. Ecco, diciamo che il nostro Capitan Uncino qualche volta chiamerà la mamma. Ah, e bene. Quindi lì c'è un ritorno proprio a mostrare che le doppia faccia ce l'abbiamo tutti. Tutti quanti vogliamo in un certo senso restare bambini e tutti quanti ci pensiamo adulti. Ecco, questa è un po' la filosofia dello spettacolo, che poi vedrà molti cambi anche in questo senso. Cioè, il musical cos'ha? Che molto, molto spesso abbiamo una scena con 20 persone, poi la scena subito dopo ne ha 20. Non è che siamo in 60, però molti si cambiano e continuano a giocare, a rientrare, è un lavoro abbastanza... Ma infatti te lo stavo per chiedere, siccome la matematica non è un'opinione, ma è fatta di numeri, ma insomma quante persone girano attorno a questo musical, compreso i costumisti? Allora, tecnici, macchinisti e tutto quanto, siamo intorno al 35 persone, 35. 35 persone. Tra, diciamo, staff creativo, tecnico e artistico. Certo. E gli attori sono tutti non attori? Cioè. Diciamo che gli attori sono tutti quanti nati, quasi tutti nati con la compagnia, in questo senso qua. È uno degli spettacoli che ha visto per la prima volta l'utilizzo, se posso usare questo termine, del nostro laboratorio. Cioè, noi abbiamo anche un laboratorio, perché altrimenti non si riuscirebbe ad avere un giusto riciclo, anche perché tutti quanti abbiamo, essendo, come diceva Cesare, una compagnia che nasce amatorialmente, non possiamo pensare che né tutto l'anno e tutti gli anni tutti continuino a farlo. C'è sempre chi va, chi viene e via. Il laboratorio mi ha permesso di avere un riciclo, un ricambio e un continuo, e anzi aumentare anche la qualità. Ma per esempio per preparare questo musical quanto tempo ci avete messo, insomma? Allora, questo è un musical che nel 2008 ha lavorato ed è stato, sì, è stato approfondito in circa 5 mesi, diciamo, dal punto di vista proprio sono arrivato a dire adesso è pronto. E poi c'è stato un lavoro di un altro anno di laboratorio, e quindi è stato, sì, abbastanza lungo, 17 mesi penso. 17 mesi per arrivare a dire è pronto, cominciamo a uscire. Si è fatto la prima, si è fatta con il laboratorio, anche se appunto i testi e tutto il resto era stato elaborato prima, e posso dire che è stata una delle ultime mie stagioni, quindi l'ho sfruttato durante la stagione lavorandoci giorno per giorno, perché la bellezza di lavorare in villaggio turistico è che riesci a lavorare giorno su giorno su una cosa, e quando arrivi a casa loro ce li hai per una volta alla settimana, due volte alla settimana, tre volte alla settimana, quando gli stai chiedendo tanto. Invece lì poi avevo la possibilità di lavorare, il laboratorio andava, e poi quando sono arrivato alla fine del prodotto ho trovato questi magnifici artisti che non sapevano neanche loro di avere dentro Peter Pan. Bello così, insomma, una bella assolutamente cosa. Sì, sì. E stai già preparando uno nuovo? Sì, allora in realtà ne stiamo lavorando su parecchi. Comunque il prossimo è che invito Cesare a venire a vedere. Cesare perché lo ritengo, essendo anche lui nell'ambiente, un esperto. Stiamo producendo una versione del Re Leone con dei bei nomi anche a livello nazionale, quindi interessante, sì. Vi invito appunto a venire a vederci. Ci saranno cori dal vivo, ci saranno la danza, tutto quanto chiaramente ben curato, e un bel prodotto. Cesare, ricordati di me, sai? ok. No, per andarlo a vedere, dicevo. Sì, eh? Sì, sì, certo, certo. Dopo vi faccio una domanda, vincete due biglietti. Se... A proposito di domande, la vogliamo fare una terza domanda, allora? Sono le 21:41, ci sta bene. Poi ci fate ascoltare qualcosa, oppure ci facciamo un po' di musica e dopo volete anche... So che mi parlavate prima che volete anche un po' recitare. Sì, sì, ma io direi che poi facciamo un altro pezzo. Aspettiamo a mettere il pezzo musicale registrato, okay. No? Ok. Beh, intanto la domanda è difficilissima, perché Capitan Uncino a un certo punto rapisce un'indiana. Come si chiama questa indiana? Devo dire... Quattro opzioni. Capitan Uncino rapisce Giglio Trifolato, Giglio Colorato, Giglio Tigrato, Giglio Invasato. Queste sono le quattro opzioni. Le ripetiamo? Allora, ripetiamo la domanda. Non me lo ricorderò mai. Giglio Trifolato. Te lo scrivo, aspetta, eh. Oh, me l'avete fatto inventare qui sul posto, non è che... Allora, dimmi. Giglio Trifolato, sì. Giglio Colorato, sì. Giglio Tigrato, sì. O Giglio Invasato. Ok, va bene. La domanda era... Ah, non mi ricordo. Chi va a rapire Capitan Uncino? Come si chiama l'indiana che va a rapire Capitan Uncino? Allora, aspettiamo i vostri sms al 346 23 20 033. Lo ripeto, 346 23 20 033. Cosa ci fate ascoltare adesso? Allora, facciamo Sono solo canzonette. Che bella. Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito Trilli che suonava. E nei sogni di bambino, la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. È così e se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, e con quanto fiato in gola vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette. Io di risposte non ne ho. Io faccio solo rock and roll. Se ti conviene, bene. Io più di tanto non posso fare. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. È così e se vi pare, ma lasciateci sfogare, non metteteci alle strette, e con quanto fiato in gola vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette. Non mi va. Più dopo. Allora, Maurizio, ci sei? Sì, volevo parlare musicalmente. Questo è il classico Bennato. Questo è il pezzo classico di Bennato, il cantastorie. Cantastorie politico. Qua la politica è un po' dietro l'angolo. Qua c'è l'effetto bambino, c'è l'effetto infanzia. Però questo è un pezzo assolutamente che dà proprio l'immagine stessa dell'album. Non per niente la title track. E quando uno scrive una title track deve avere una funzione in un album. Tu mi insegni, regista, tutto collegato, c'è poco da fare. Eh sì. La commistione tra le musiche e le scene, che difficoltà hai avuto a farle? Diciamo che soprattutto in occasione di un musical. Di un musical, che è fondamentale. La musica è fondamentale. Assolutamente. L'essenza di tutto. Sì, è fondamentale e però anche qui devo dire che la visione è importante, no? Sì. se lo si ascolta questo pezzo come concept album, sì, le cose sono chiare politicamente, certo, hanno una lui linea, l'ha fatto in quella maniera là, in quel momento e là lì non ci scappi, certo. Se lo andiamo a vedere all'interno della storia, effettivamente lui sta chiedendo pari pari quello che c'è scritto politicamente, ma lo sta chiedendo nei fatti, sì, nelle cose più semplici, nel momento in cui uno sceglie di vivere la vita e di provare alcune cose che sono fuori dagli schemi, ecco, quello lì vuol dire scegliere, quello lì vuol dire cambiare un binario che, sì, siamo abituati a prendere, quello lì è già fare politica, certo. E quindi un bambino che decide di andarsene fuori da quella finestra e di non essere e di raccontare la sua storia e non di ascoltare solo le storie degli altri è già una scelta che, vista in piccolo, per un bambino è già un insegnamento, è un piccolo insegnamento, è un seme che tu metti e che dai la possibilità poi, quando torneranno a casa, di dire, quando tuo papà ti dice smettila di sognare, di guardarti, e invece lui dice ma perché? Perché? Sono un bambino, non posso sognare, non posso vivere la mia storia. E quindi c'è una visione anche qui di apertura alla fantasia, ecco, io la vedo più così, in questo senso qua. Poi se ti vado a raccontare come vedo le scene, è chiaro che mi sono ispirato molto al mondo del bambino, e quindi anche in questo senso qua un pezzo così che è molto rock, sì, la gente lo segue con il battito di mano, e i bambini che sono lì sul palco, cioè quelli che recitano e ti mostrano la scena, sono sereni, allegri, sono pieni di vita, non sono con chissà che problemi che si vanno a riscontrare, e poi chiudono tutto quanto pensando a questo Peter Pan, a questo personaggio che li può far viaggiare, li far volare e vedere le cose diversamente, ecco. Questo continua in tutto quanto lo spettacolo, tanto che Peter Pan è anche molto cabarettistico, e il cabaret insegna che è molto tagliente, e il cabaret ti fa vedere le cose, e la stessa parola te la cambia completamente nell'origine, e di conseguenza hai anche una visione, sì, allegra, ma allo stesso tempo ti lascia qualcosa. Se torniamo indietro negli anni, ti ricordi Petrolini? Petrolini faceva questo. Vabbè. Petrolini era il massimo, cioè in quel periodo, in quel regime decisamente non libertario, riusciva a dare le stoccate giocando con le parole. Hai usato la parola giusta, no? Regime. Esatto, c'era un regime. già adesso comincia un po', cioè, voglio dire, stiamo sgretolando un po' altri nodi del regime. Certo, certo. Però è importante portare una storia che abbia questa libertà e che nessuno si renda conto che in questa libertà ci sta veramente anche la possibilità di crescere, ecco, in civilmente e anche dal punto di vista mentale. Chiaramente proprio così. E invece un altro aspetto, diciamo, tecnico di questo musical, lo chiedo sempre a te, Luca, perché sei il regista, ma insomma potete rispondere qualsiasi di voi. E invece per quanto riguarda la parte musicale, viene suonata lì dal vivo, avete delle basi, come si è tirata la cosa? Diciamo che, come ben si sa, cioè prima Cesare ha sollevato un piccolo problema, che le risorse sono poche, le risorse, cioè è più facile sicuramente prendere e avere una base, è molto più semplice, uno perché le prove poi le fai con quella base e te la ritrovi in scena quella base lì, e due perché effettivamente, se vogliamo dal punto di vista tecnico, oramai è diventato quasi, anzi sicuramente, più dispendioso l'aspetto tecnico che non l'aspetto artistico, soprattutto in questi tipi di progetto dove tu devi in qualche modo ambientare tutto, e quindi diventa impegnativo e diventa quasi un lusso potersi permettere la musica dal vivo. Lo faremo con il prossimo lavoro, ma sappiamo già che se questi Peter Pan sono usciti 20 volte, quelli riusciranno a uscire 10 volte, perché è difficile anche dal punto di vista, certo, tecnico. Quindi voi presenterete Peter Pan qui a Dal Vignazzego con delle basi, insomma. Voi assolutamente ci cantate, sì. Voi sì, ci sì, cantate sì, sopra, sì, insomma. Sì, questo sì, è quanto. Insomma. Questo è quanto. Allora, questo Capitan Uncino, chi ha rapito come donna, come indiana, insomma, Giglio Trifolato, Giglio colorato, giglio tigrato o giglio invasato? Questa è la domanda. Chi mi manda la prima risposta? Ovviamente, insomma, giusta. Non hanno ancora risposto? No, non hanno ancora risposto. Ma lo sapevo che era difficile. Era difficile, è difficile, è difficile. Gli altri due l'hanno indovinato subito, immediatamente. Questa è un po' più difficile. È più tecnica. È più tecnica, è più tecnica. Allora, volete riposarvi un po'? Facciamo ascoltare qualcosa da disco, insomma. Dal punto di vista originale questa volta, va bene? Certo. Okay. Ci ascoltiamo una delle canzoni. Cosa succede qua? Ecco, dicevo, ci ascoltiamo una delle canzoni più famose di questo artista italiano. È un pezzo dedicato a tutte le mamme e ce l'ascoltiamo così come sta, cioè Viva la mamma. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock. Ora tu non sei un sogno, tu sei. Sempre, sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento. SMS 346 23 20 033. Blue Time Live. Live. Come si chiama l'indiana rapita da Capitan Uncino nel musical Peter Pan? Vi do quattro possibilità di scelta. Una è Giglio Trifolato, Giglio Colorato, Giglio Tigrato o Giglio Invasato. Chi mi dà la risposta esatta, come dicevo prima, ha diritto a ricevere un ingresso gratuito, un biglietto omaggio, insomma, per partecipare alla seconda edizione di Sognando Broadway, che inizia sabato prossimo, cioè sabato 29 settembre alle ore 21 al Palazzetto dello Sport di Albignasego. È palazzetto polivalente, perché c'è il Palazzetto dello Sport ad Albignasego, ecco, e non è quello. Ho fatto una gaffa. Al Palazzetto Polivalente. Sì. Di Albignasego alle ore 21, appunto, con il musical Peter Pan. Maurizio. No, volevo solo l'ultimo verso di Viva la mamma con me. Parla del rock, chiaramente. È sempre quello, cioè, c'è poco da fare. Parte sempre. Il rock vuol dire movimento. Mi insegni il regista. Il rock vuol dire movimento. Il movimento è Peter Pan, è un musical di movimento, assolutamente di movimento. Cioè la gente deve partecipare, tutti i musical secondo me devono, la gente deve partecipare, il musical è partecipazione, è nato come partecipazione, cosa ne dici? Beh, dico che effettivamente, beh, andiamo alle origini. Andiamo alle origini, la gente vuole sapere le origini. Andiamo alle origini, guarda, adesso mi tocchi, fine dell'Ottocento. Bene. Siamo in America, e quante etnie ci sono? Ah, tantissime. E qual è il linguaggio che può accomunarle tutti? La musica. Certo. È la musica nel loro movimento, nel loro modo di essere e di andare a recitare ogni giorno quella che è la loro festa. Ed effettivamente poi il musical nasce proprio da questa esigenza, da mettere insieme più persone che parlano lingue diverse e che attraverso la danza, il movimento che è comune a tutti, attraverso il rock che hanno dentro, riescono poi a comunicare e un po' alla volta nasce la storia del musical. Quindi è una storia che negli ultimi 100 anni è diventata importante. Sì, è stata molto importante, soprattutto. Dimmi. E direi che un bel mattone, visto che parliamo di rock, ce l'ha messo un certo Weber, che a un certo punto... E qui si è fatto un sacco di mattoni Si è fatto un bel po' di mattoni, ma penso che tra tutti l'assoluto sia quando abbia deciso di prendere la storia più importante e più conosciuta di tutte, la più importante scritta, assolutamente, e si è preso il bel Jesus Christ Superstar e l'ha reso un musical rock, assolutamente rock, di partecipazione, dove la gente, quando alla fine si ritrova davanti questo qua attaccato alla croce, non c'è una nota, come mi insegna il musicista, maggiore, e tutti rimangono lì. E c'è partecipazione, assolutamente. Una grande idea, ma un grande coraggio per portare avanti un'idea simile, perché puoi bruciarti, assolutamente. A quel tempo era blasfemo, cioè è successo di tutto e di più intorno a quello spettacolo. Però ecco, proprio per attaccarci a questo aspetto, cioè il musical fondamentalmente credo che un po' rock lo sia, anzi è molto più rock che non l'opera. E questo. Una volta l'opera era rock, però. Ah, beh, stiamo parlando dell'opera. Sì, no, no, chiaramente era, sì. Certo. Eccolo lì. È un mito questo è comunque, è un mito davvero. Musical che mi è sempre piaciuto tantissimo. Insomma, il bello che il protagonista di Jesus Christ è Giuda, in ogni caso. Assolutamente. È Giuda. Certo. Purtroppo è morto di recente, era meraviglioso. Carl Anderson. Sì. Beh, che abbiamo avuto la fortuna di averlo in Italia. Cioè, gli ultimi anni li ha fatti qua. Insegnava. Ma poi ha fatto anche il ruolo. E una cosa stranissima, che poi non so se l'avete letta, è che lui non ha mai accettato il ruolo di Gesù, perché gliel'avevano proposto il ruolo di Gesù. Vero. Non lo sapevo. Vero, avevo letto, sì. E l'ha fatto una volta solo. E poi è successo. Ecco. Poi si è ammalato, non è più riuscito ad andare in scena e quant'altro. Quindi c'è qualcosa dietro, no? Cioè, come negli anni 70 veniva scritta la musica e stavamo lì ad ascoltarla al rovescio per sentire il subliminale. C'è qualcosa di strano anche in questo pezzo qua, in questo musical qua. Non lo so, questo non lo, sinceramente non lo sapevo. Come non hai mai sentito al contrario? No, ho sempre saputo che lui insegnava, insegnava canto, insomma, anche qui in Italia, è venuto a fare dei seminari. E però che poi, insomma, avesse fatto anche una parte di Jesus Christ, non lo sapevo. So. Sì, beh, è stato l'anno del giubileo, nel 2000 è riuscito a girare con Piparo, che faceva in quell'anno musical Jesus Christ Superstar, non in italiano, in inglese, a quel tempo. Bene, adesso ci ascoltiamo ancora qualcosa per quanto riguarda questa compagnia del villaggio. Cosa ci fate sentire? Adesso arriva il rock. Cioè arriva l'atmosfera l'atmosfera di rock. Siamo sulla nave, i bambini arrivano sull'isola che non c'è e vedono questa nave in mezzo al mare. L'ambientazione è su una barca dove vivono i pirati con Capitano Uncino, che è una lotta continua con Peter Pan e deve dargli la caccia e continua a cercarlo, a cercarlo, a cercarlo. E la canzone si chiama? Il rock di Capitano Uncino. Grande, Simon. Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove! Ma sono non il comandante! Di questa lurida nave! Di questa lurida nave! Sono non sono il capitano Uncino! E allora quando vi chiamo, lasciate tutto e correte e fate presto, perché chi arriva tardi lo sbrano. Avanti chi mi dà notizie di Peter Pan. Lo voglio vivo, però quando lo acchiappo lo so che cosa gli farò. Si prende gioco di me e fa il gradasso, perché quei branchi di mocciosi lo stanno ad ascoltare. Lo credo non un eroe, ma a voi vi sembra giusto durante un duello? Ha preso la mia mano, l'ha data in pasto a quel dannato coccodrillo, ma non la passa liscia, gliela farò pagare con le mie stesse mani, anzi con il mio uncino, io lo dovrò scannare. Eccolo in vista, è lui con tutta la banda. Meglio che questa volta si arrenda. Io non voglio prigionieri, mi basta solo un ostaggio. La ragione della vostra parte, ricordate, avanti all'arrembaggio, avanti all'arrembaggio. Sono non sono il capitano Uncino, e allora avanti col cor. Cantate tutti con me e ripetete con me gli slogan che mi ha insegnato. Per i pirati noi siamo, contro il sistema lottiamo. Ci esercitiamo a scuola a far la faccia dura per fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di strano? Facciamo un gran casino, ma in fondo lavoriamo per Capitano Uncino. Io sono il professore della rivoluzione, della pirateria. Io sono Maurizio, ti vedevo intento. Eh sì, beh, il rock è il Capitano Uncino. Ma non avete bisogno di uno che ama il rock nella vostra musica? Vi regalo Maurizio Il nostro Capitano Uncino è stato proprio rock, sei proprio rock, cioè con qualche venatura di blues, secondo me. Quella voce un po' grattata, non dico la Tom Waits, siamo un po' troppo distanti, ma un po' grattata quella, sì. Mm-hmm. Fa bene la salute grattare la voce o no? Cosa dici? Mica tanto. Diciamo che bisogna stare un po' attenti e controllarla, altrimenti... Ecco, adesso ti chiedo una cosa molto semplice, molto seria. La preparazione per fare un pezzo simile, come viene da parte tua? Al di là del regista, parlo di te. Guarda, personalmente per me questo pezzo qua è stato un'evoluzione, perché è partito, la base è sempre rock, è certo, chiaro. Questo siamo d'accordo. Io sono partito la prima volta che ho fatto Capitan Uncino, parliamo di forse 2 anni e mezzo fa, con la voce pulita. Poi man mano che si affina il personaggio, si impara anche ad utilizzare la voce, e quindi sono arrivato a farlo in questo modo. Perché la voce dà l'espressione di Capitan Uncino, secondo me. Ecco, una delle caratterizzazioni secondo me di questo personaggio è anche la variabilità nel tono di voce. Passa esatto. Da... Ecco, per cui giocare su questo sicuramente rende il personaggio più interessante, più versatile. Perfetto, hai dato proprio la fotografia giusta, quello pensavo io, chiaramente. E come recitazione invece, come ti prepari? Beh, fai aiutare dal regista o ognuno? Sì, no, assolutamente. È chiaro che c'è una preparazione, uno studio che si fa a casa, no? Ognuno per conto proprio, studia il copione, poi ci si trova con il regista dà le indicazioni sulle intenzioni delle battute e quant'altro, sulle espressioni, sul movimento, sull'intonazione della voce e con tutto il resto, insomma. Ci si confronta, comunque è sempre un confronto aperto. Ma quando ti dicono tu devi fare Capitan Uncino, la tua prima Ma guarda, sensazione? Io questo spettacolo qua sono partito a farlo dalla regia, io facevo il fonico in questo spettacolo qua. E poi per esigenze di compagnia ho sostituito il vecchio Capitano Uncino e sono stato felicissimo in questo caso, perché è un personaggio rock, sostanzialmente per quello. Ah, ecco, quindi vai d'accordo con Maurizio che lo chiama. Ah, sì, assolutamente. E invece Peter Pan? Sì. Questo folletto, come diceva Maurizio poc'anzi. Sì, Peter. Come ti ci vedi? Com'è il tuo personaggio? Beh, Peter Pan io lo porto avanti appunto da quando è nata questa idea di mettere in scena questo musical, quindi dal fine 2008, e quindi subito quando mi è stato dato, quindi in tutto 4 anni fa ormai, l'avevo visto come il mio ruolo, nel senso ero felicissimo, lo trovavo adatto e tutto, mi piaceva farlo. Poi crescendo lo conosci sempre meglio nelle varie sfaccettature Peter Pan, quindi anche nello spettacolo si vedrà un'evoluzione di questo personaggio, che subito è un bambino che pensa solo a divertirsi, a giocare, a voler far divertire chi gli sta attorno con il suo mondo dell'isola che non c'è, con le fate, gli indiani, le sirene. Poi si trova a un certo punto di fronte a questa Wendy, che è un personaggio che lo spiazza, soprattutto in un certo momento in cui si trova davanti e Wendy inizia a parlare di sentimenti. E in quel momento Peter Pan crolla, nel senso che non riesce più a capire quale sia il suo... Perché, insomma, Wendy gli chiede questo, quando lui è abituato a vivere in un mondo di fantasia. E quindi c'è questa evoluzione del personaggio. Comunque è un personaggio divertente, bello, ogni volta è un'emozione diversa farlo, perché ti diverti sempre di più, scopri sempre una sfaccettatura diversa con altri personaggi, e quindi anche lui è molto rock a modo suo, nel senso che ha l'anima un po' più da bambino, nel senso è come quando si attacca una canzone a un bambino che si mette a ballare spensierato e non guarda neanche quello che fa, e quindi non è un personaggio inquadrato, è un personaggio che vuole divertirsi, insomma. Ma ti fanno, posso capirvi un segreto? Lo fate proprio volare Peter Pan? O... Vedrai. Non ce lo dico. volerà. Però ecco, posso aggiungere, intanto il ragazzo ha doti, molte doti di ballerino abbastanza spiccate, che quindi lo rendono leggero, cioè lui vola sul palco effettivamente già anche senza l'aiuto diciamo, che poi ci sarà chiaramente, Peter Pan deve volare, però guardandolo in scena molte volte, cioè, lo guardi e dici ma stai fermo un attimo o no, lui vola, si muove, e oltretutto Matteo insomma si sta perfezionando, perché lui è nelle fila della scuola del musical più importante d'Italia adesso, che è a Milano, che è la scuola del musical di Saverio Marconi, quindi come dire, abbiamo noi ce l'abbiamo in erba, ma diventerà un grande, siamo orgogliosi. Nasce dalle nostre file, dal nostro laboratorio, quindi dico Matteo veste Peter Pan. Se mi chiedi di fare vestire Peter Pan a Capitano Uncino, ti dico fa già più fatica, sebbene sia un grande campione di volteggi, perché lui lo è. Grazie, assolutamente il mio maestro. Però, qui vicino ho il coccodrillo che dice che lui lo vestirebbe altrettanto bene. Ve lo faccio solo immaginare, per chi non lo vede, è 100 kg di uomo per 1,90 m, ma veramente proprio Simone volevo. Sì. Simone, ma poi sei riuscito a digerire la sveglia? Sì. Com'è sì. Che fa? Ancora. Fai sta sveglia. Tic tac tic tac tac tic. Com'è il tuo personaggio invece, a parte gli scherzi? Il mio personaggio, a differenza di loro, che hanno cominciato dall'inizio con Peter Pan, io sono entrato dopo. Cioè, facevo parte lo stesso della compagnia. Però mi hanno chiesto, come di solito fa il mio amico regista, Simone, potresti farmi una piccola parte? E io, stupido, gli dico, sì, dai, non preoccuparti, ce la faccio. E poi succede sempre il patatra, vabbè. Quello lì? Sì. E niente, sono entrato dopo, però il personaggio del coccodrillo è... Non lo so se è buono o se è cattivo. Cioè, è buono perché ha mangiato Capitano Uncino. Però è cattivo perché non ha mangiato. Scusate. Avete capito? Forse è l'ora. No, vi svelo un segreto. Io faccio il coccodrillo da quanto ormai? Un annetto. Sì. Ecco, non so ancora se mangio o no, Capitano Uncino. Rendetevi conto come sono messo. Ecco il perché della formazione. Ok. No, comunque è un personaggio. Mettiamolo così. È un personaggio. Una macchietta, diciamo. Sì. Ma è una macchietta, una pozzanghera bella grande, macchietta piccola. Sì, è un po' voluminosa, però. Ecco, ho solo dato un aiuto a Luca e ai ragazzi. Ma insomma, ti piace fare il coccodrillo? Insomma. Sì. Sono un po' coccodrillo nella mia vita, perché sono un po' grezzo, però sì. In realtà è importantissimo il coccodrillo, perché è quello che ferma il tempo. Esatto. Quindi assolutamente direi che è fondamentale nella storia, altrimenti quel giorno, quando quella sera papà e mamma ritrovano i due bambini e non sanno che hanno vissuto questa grande avventura, il coccodrillo, se non esistesse, si sarebbero accorti che i bambini mancavano da più giorni in casa e quindi dove erano andati. E quindi è importante questo ruolo. Simone, adesso ti svelo, sei il fulcro di tutto, cioè, lo spettacolo. I musical mi fanno capire tante cose. Intervista in radio più che altro. Cioè. E invece il tuo, Luca, la tua spalla di Capitano Uncino, insomma, questa spugna, questo personaggio meraviglioso. Sì. Meraviglioso. È un personaggio che secondo me senza spugna Capitano Uncino non sarebbe nulla. È una spalla che va a spalla ingenua e che vive praticamente sulle spalle di quest'uomo che ha questo equipaggio abbastanza, direi, sgangherato, la parola giusta. Ma visto che ci sei, visto che ce lo stai chiedendo, possiamo farti un pezzettino di recitato di questo? Ma certo, qua che così, sì, infatti me l'avevate detto prima, così poi ne parliamo ancora di più. Prego. Allora lo ambientiamo. Siamo alla fine di questo rock di Capitano Uncino, quindi l'atmosfera è di questi che cercano di pulire la nave, sono lì tutti quanti sfaticati e nascosto, ben nascosto per non farsi mai trovare da Capitano Uncino, spugna è in un angolo. Ai posti di combattimento! Questa volta quel dannato Peter Pan lo prenderò e allora... Spugna! Spugna, dove sei? Tuoni e fulmini, perché non ti fai mai vedere dal tuo capitano? Spugna, dove sei? Sono qui, capitano. Dove? Sono qui, capitano. Ma che sei pazzo? Mi farai morire prima o poi. Hai ricominciato a bere. No, Spugna, ti farò saltare da quel trampolino un giorno o l'altro. Capitano, speriamo sia l'altro. Notizie di Peter Pan. Sì, si dice sia tornato sull'isola. Sull'isola? Sì. E dove? L'abbiamo girata in lungo e in largo quest'isola, ma di quei dannati mocciosi nemmeno l'ombra. Peccato, capitano, se c'era un'ombra io la vedevo sicuramente. Quella lì che si chiama la figlia di Capotoro, quella che si chiama Giglio Moscato. No, è Giglio. È Giglio Torcolato. Giglio Tigrato, idiota! Ecco, hai dato la risposta alla quiz. Ecco. Quella lì, ecco, dice di sapere dove si trova l'accampamento del nascondiglio di Peter Pan. Bene, allora prendetela, catturatela e torturatela, finché non vi dirà dove si trova quel maledetto Peter Pan. Ecco, c'è un piccolo problema, capitano. Quale, Spugna? Ecco, beh, beviamoci su un attimo prima, capitano, però c'è un piccolo problema. Ecco, nessuno di noi sa dove si trova l'accampamento degli indiani. Cin. Ma perché? Perché sono circondata da un branco di incapaci come voi! Sì. Spugna, io mi sento solo, senza un amico. E da solo devo combattere contro quel maledetto Peter Pan. È sempre la solita storia. Spugna! Sì. Io ti avevo chiesto di trovarlo, mi fidavo di te, ti avevo scelto come mio prediletto. Ho sbagliato. Capitano, su, non se la prenda! Spugna, io li voglio tutti quei bocciosi. Ma più di tutti voglio lui, Peter Pan. Sì. Lui... Ho tagliato la mia mano ed io da tanto tempo voglio tagliare la sua gola con il mio uncino! Capitano, hai infilzato il suo uncino sulla mia gola, non su quella di Peter Pan! È la sua gola che vuol tagliare, capitano. E comunque quello lì è un ricordo che dovrebbe aver rimosso. Ma spugna, la mia mano è stata rimossa! Ed è stata data in pasto a quel dannato Ecco. Ogni volta che devi dire quella parola mi diventa una gallina. Ma mentre lei fa l'uovo io mi faccio un bel bicchiere di rum. Cin, capitano. Capitano, Coccodrillo. Bastava dire quella parola ed è bastato dargli in pasto la mia mano che da quel giorno mi segue di mare in mare. Eccolo là. Di terra in terra. Di terra in terra. Di tanto in tanto. Se si ricorda. Al pensiero del suo pasto. Essere o non essere, questo è il dilemma. Ma ce ne sono. La nebbia agli orticolli, piovigginando sale. Sì. E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Ma capitano, non può dimenticarsi il momento migliore. Ma per le vie del mosto, tra ribollir dei tini, va l'aspro odor di vini, l'animo rallegrar, capitano! Bravo! Eccolo qua. Ma bevi veramente prima di recitare? È astemio! Sveliamo anni e anni a guardare i miei amici che si ubriacano, soprattutto Capitano Uncino. Complimenti, veramente. Per essere poi una compagnia, diciamo, nata quasi per caso, insomma, sì. Già a questi livelli, insomma. Però io volevo sentire recitare anche Peter Pan. Peter Pan non recita stasera? No, stasera no, perché non ha la sua compagna di avventura. Ma come no? La mia Wendy. La mia Wendy. Non c'hai, sì. Non c'hai in In verità Peter Pan ha due compagne. Wendy e sempre la sua amichetta Trilly. Oddio, ha bruciato un'altra domanda. Ho sbagliato. Era la domanda per il quiz successivo. No. Scusa, Simone. Allora, Blue Radio Veneto in simpatia questa sera con il musical Peter Pan, con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con la Compagnia del Villaggio, che è questa compagnia che presenterà sabato questa manifestazione assieme ad altre quattro compagnie. Regaleranno momenti bellissimi un sabato sì, un sabato no, insomma, in pratica a partire, appunto, come dicevo, da sabato prossimo. Questa compagnia inizia con Peter Pan e poi seguiranno Cesare, aiutami tu. Sì, poi c'è il prossimo sabato c'è Arriva Mary Poppins. Poi c'è Life in Plastic, che ricordiamo è quella della Barbie. Esatto. Barbie, ho detto Barbie. Delle Barbie, esatto. Poi c'è La Ruppe di Re, che non è altro che il Re Leone. Uh-huh. E Mamma Mia, l'ultimo. Mamma Mia, che è proprio quello tratto dal film, proprio, sì, insomma, tutto, esatto. Quindi con musiche, con le musiche degli ABBA. Degli ABBA, insomma. Sì. E tu cosa fai? Io faccio uno dei possibili papà. Ah, ho capito. Va bene, sono le 22:21. Maurizio, che dici tu? Proseguiamo a fare un pezzo musicale. Un pezzo musicale. Esattamente. No, io sto ascoltando. È la prima volta che ti capita. Mi capita un musical, devo imparare, devo entrare nell'argomento. Blu Radio Veneto non ha limiti, no? Esattamente. Ci divertiamo a far ascoltare il più possibile musica, ovviamente, insomma. Vuoi fare una domanda prima di iniziare, però? Quando entrate in scena, cioè quando che cosa sentite prima di calcare la scena? Quando il sipario si apre, che sensazioni vi dà? Ah, è quella è la sensazione. C'è l'adrenalina, mi pare che ci deve sempre essere l'adrenalina. Assolutamente. E secondo me non essere emozionati è sintomo di qualcosa che non va. È vero. Per quel che mi riguarda. Sono d'accordo con te. Non sono emozionato o agitato, come si suol dire. Non rendo. Io personalmente penso sia... Devi avere adrenalina dentro, insomma. Assolutamente. Guarda che riguarda anche noi speaker. Anche noi, nonostante tutto, è ma così. Anche questa sera, prima della diretta, prima di qualsiasi performance artistica, voglio dire, siamo sempre soggetti a questa tensione. Certo, insomma. Penso sia giusto così. È arrivato Renato Ferro, quindi tra poco ci sarà l'heavy metal, l'hard rock anche, insomma, quella è la musica che piace a lui ovviamente e ai suoi fans. Allora, prima di salutarci, Cesare, una domanda a te e una domanda anche a Luca. Perché come dire, uno spettatore deve venire a vedere la tua manifestazione? Deve venirla a vedere per divertirsi, per emozionarsi e anche per se uno non ha mai visto dal vivo un musical, secondo me potrebbe essere un buon inizio, anche perché i prezzi sono popolarissimi, perché il biglietto intero costa 10 euro, e in realtà si potrà rendere conto che queste compagnie non hanno, in alcuni casi non hanno nulla da invidiare alle compagnie professionistiche. Potrebbe essere un buon modo anche per iniziare, uno che non ha mai avuto questo approccio con i musical dal vivo soprattutto. E invece Luca, a te perché devono venire a vedere Peter Pan? Per divertirsi, per stare 2 ore proprio in una situazione lontana dalla realtà e tornare bambini. Assolutamente, anche se sono adulti. E aggiungo una cosa che prima Cesare, il musical è più adatto di tutti gli altri generi, secondo me, per avvicinare la gente al teatro. Perché il teatro, molti ce l'hanno in testa come qualcosa di pesante o qualcosa di aulico. Qui possiamo cominciare veramente con qualcosa di molto papabile per tutti. In questo senso qua li inviterei, che poi possiamo ragionare sulla profondità delle cose e via. Però vi invito a venire a vederli, certo. E vi divertite. E quindi l'appuntamento è a sabato, fra 2 giorni. Sei emozionato? Sono emozionato, come mi emoziono sempre. E sono felice di rivedere questi spettacoli, anche perché io in realtà ho voluto organizzare questa cosa per fare una cosa che piacerebbe vedere, cioè se l'avesse fatto qualcun altro io sarei andato a vederla volentieri, certo. Perciò sono sì anche un po' agitato, anche perché la prima è sempre la prima, però poi in realtà, come dicevo prima di iniziare, i ragazzi, visto che non è lo spettacolo mio, sono agitato, però anche sono molto molto tranquillizzato, perché vedo loro che lavorano e io intanto me la spasso. E ti prepari per l'ultima? Quello sì. Allora, ricordiamo un po' di pavoneggiamento, ci sta, che Blu Radio Veneto comunque fa parte anche lei di questa manifestazione, esatto. Cioè siamo media partner, certo. Io sono in giuria, sì. E quindi anche noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di dare una mano a questa rassegna di musical che, ripeto, si comincia sabato prossimo, perché secondo il nostro punto di vista credo sia una bellissima manifestazione, quindi è onorato. Grazie. Io e tutta Blu Radio Veneto di farne parte, è onorato di avere qui le compagnie oltretutto, insomma, ecco. Che ci stiamo divertendo come questa sera, penso che Maurizio sia d'accordo con me. Assolutamente, perché il solito discorso, quando si fa la cosa dal vivo, questa sera siamo assolutamente dal vivo, sono le 22:26, c'è niente di prefabbricato, è un'altra cosa. Il live è un'altra cosa, e live anche con il musical è un'altra cosa, è quello importante, certo. Essere dal vivo, cioè suonare, cantare e divertirci, però dal vivo. Adesso cosa ci fate ascoltare come ultima canzone? E poi ci faccio sarà. Io? Sì. Beh, siamo alla chiusura, quindi andiamo con una canzone che vi manda in tranquillità in uscita da questa trasmissione, però lo facciamo con Edoardo Bennato ancora, con Ogni favola è un gioco, ed è proprio la chiusura dello spettacolo, cioè il cast completo si ritroverà, voi se ci sarete vedrete, si ritroverà sul palco, quindi da Capitan Uncino a Peter Pan a tutti, e fondamentalmente raccontano che ogni favola alla fine è un giocare, un mettersi in gioco e un poter essere pronti per una nuova favola che è la vita di tutti i giorni. Perfetto. Bene, allora non mi resta altro che dare un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e l'appuntamento per quanto mi riguarda è a giovedì prossimo, cambieremo completamente genere ovviamente, andremo in Australia, ebbene sì, abbiamo l'onore di avere una cantante che ci raggiunge da Perth in Australia, verrà a fare un live, è in tournée in Italia, si chiama Lori Greco, verrà a cantare qui dal vivo col pianoforte, qui ci sarà una tastiera con i tasti pesati ovviamente, simuleranno il pianoforte con chitarra e lei canterà le sue canzoni, lei scrive e canta e fa la musica oltretutto anche delle sue canzoni, quindi un grande appuntamento alle ore 21 qui a Blu Radio Veneto con Lori Greco, se avrete voglia di ascoltare, se chiudete gli occhi e ascoltate la sua voce sembra Barbara Streisand, non vi dico altro, insomma una voce splendida, quindi l'appuntamento per quanto mi riguarda è giovedì prossimo. Invece Maurizio, tu? Noi partiremo martedì con Flavio, mercoledì ci sarò io, giovedì ci sei te con me, quindi io ho tre giorni importanti perché... Quando è che ci sono io? È giovedì. Ah, giovedì. È giovedì prossimo. No, pensavo che mi avessi messo in qualche altro... No, per questa settimana, per la prossima sei solo giovedì prossimo e poi si vedrà. E poi si vedrà. Esattamente. Va bene, allora ringraziamo anche Gilles, il nostro nuovo entrato che comunque ci sta regalando foto splendide ogni serata, anche se lo sentite poco, ma tra poco lo sentiremo un po' più... presente insomma le nostre. Vuoi salutare? Vieni a salutare. Buonasera a tutti, grazie ragazzi, anche a voi, complimenti. Bene, allora ci lasciamo con Ogni favola è un gioco, la compagnia del villaggio che vi ricordo per l'ennesima volta apre la rassegna chiamata Sognando Broadway, la seconda edizione, sabato prossimo alle ore 21 al Palasport Polivalente di Albignasio. Ciao ragazzi e in bocca al lupo per la vostra carriera. Grazie. Crepi. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti vissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Universi sconosciuti, anni luce da esplorare, astronavi della mente verso altre verità. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà.